Immagina questa scena, una mamma seduta all'ufficio postale. La bambina la guarda, le sorride, ma tra di loro c'è qualcosa, uno schermo. La mamma controlla i messaggi su WhatsApp, scrive, manda qualche risposta e la bambina continua a guardarla e anche lei la guarda. Ogni tanto alza lo sguardo dallo schermo e la saluta. Poi ritorna sullo schermo, comincia a scorrere il feed di Facebook, a controllare diverse cose e la bambina ancora che la guarda. E lei che la guarda, ma ogni tanto ritorna sullo schermo e ogni tanto la guarda. Una scena che forse abbiamo visto decine di volte, forse l'abbiamo vissuta anche noi. Una scena normale, quotidiana, ma una scena alla quale fare una particolare attenzione. Perché? Perché per un bambino, anzi per ogni essere umano, quella che viene chiamata la sintonizzazione è qualcosa di estremamente importante, fondamentale per una crescita serena. Ne parla diffusamente Daniel Goleman in quello splendido libro Intelligenza emotiva, di cui vi ho lasciato il link in descrizione. Tra parentesi, se volete farvi un regalo, questo è proprio il regalo giusto. Lo leggerete dall'inizio alla fine tutto d'un fiato. È meraviglioso, è fantastico, non perdetevelo. Goleman parla di una ricerca condotta da Daniel Stern, uno psichiatra della Cornell University. Di che cosa parla questa ricerca? Parla proprio della sintonizzazione, cioè di quei piccoli ripetuti scambi che continuamente ci sono tra un genitore, i genitori, in particolare la mamma, e il proprio bambino. Questi piccoli ripetuti scambi costituiscono, secondo Daniel Stern, il fondamento della vita emotiva futura del bambino. Sono quei momenti fondamentali in cui il bambino, anche di pochissimi mesi, si rende conto che le sue emozioni incontrano l'empatia dei suoi genitori e queste emozioni sono accolte e ricambiate. Pensiamo ad un'altra scena altrettanto familiare, una mamma che prende il suo bambino in braccio, lo tiene vicino a sé, lo guarda negli occhi. Il bambino le fa qualche sorriso oppure emette qualche gridolino e la mamma come risponde? Anche lei gli sorride, fa qualche gridolino, probabilmente lo imita, lo dondola. In ogni caso, il bambino si rende conto che la madre in quel momento è in sintonia con lui, è sulla stessa lunghezza d'onda emotiva. Non si tratta di imitazione, si tratta di una vera e propria sintonizzazione. Il bambino sente di essere collegato emotivamente alla madre attraverso questi piccoli ripetuti scambi. Stern, lo psichiatra di prima, afferma che se il bambino sistematicamente non si sente ricambiato, potrebbe tendere ad eliminare completamente dal suo repertorio emotivo certe emozioni. Un po' come se pensasse, se io quando mi eccito non riesco ad ottenere che anche mia madre si ecciti allo stesso modo, allora tanto vale non provarle proprio certe emozioni. D'altra parte, una buona sintonizzazione ha effetti benefici importantissimi, non solo sulla serenità del bambino, ma anche sul suo benessere futuro. Torniamo alla mamma di cui prima, all'ufficio postale. Di sicuro non possiamo dire che quel bambino un domani avrà problemi, assolutamente. Un'occhiata allo smartphone ci può anche stare di tanto in tanto. Però è importante che quando stiamo con i nostri figli e ci rendiamo conto della qualità del tempo che spendiamo con loro, che cerchiamo di essere sempre il più possibile sintonizzati con loro in certi momenti, proprio perché loro sentano questa sintonia emotiva, si sentano capiti, compresi e ricambiati. È importante che il genitore, cioè, cerchi di prestare il proprio tempo, la propria attenzione, il proprio sguardo in modo consapevole, in modo pieno, cercando di eliminare il più possibile tutte le distrazioni che potrebbero invece limitare questa attenzione piena e consapevole. Una cosa di sicuro la so. Quando io parlo con una persona, di sicuro non mi fa piacere se quella persona poi continuamente guarda il cellulare mentre mi parla, mentre l'ascolto e magari mi dice anche sì, ti sto ascoltando, sì, certo. E ora io che sono adulto ho gli strumenti per intervenire e potrei dirgli senti, stiamo parlando, non potresti adesso per favore mettere un po' via il tuo cellulare? E il bambino però questi strumenti non ce l'ha e quindi reagirà in qualche modo, in un modo diverso. Magari diventerà capriccioso ed irritabile o magari tenterà di inventarsi qualunque cosa piuttosto di attirare l'attenzione e lo sguardo dell'adulto su di lui. O magari in certi casi tenderà a chiudersi in se stesso. All'opposto, il bambino che invece avrà goduto di una buona sintonizzazione in futuro riuscirà forse più facilmente a costruire relazioni positive. Non credo di esagerare se dico che lo sguardo ha un'importanza fondamentale nella comunicazione interpersonale. Lo sguardo, il sentirsi guardato, gli occhi, il guardare negli occhi, il sentirsi guardato negli occhi. Se hai un figlio, ti prego, fagli questo regalo inestimabile, il tuo tempo, il tuo sguardo. Quando stai con lui, cerca di essere sintonizzato al 100% con lui. Presta attenzione a come lo guardi, a quanto lo guardi, a quanto lo segui con i tuoi occhi, con il tuo cuore. Ma tutto questo serve non soltanto ai bambini, serve ad ognuno di noi, ne abbiamo tutti bisogno. E allora mi chiedo, quando sto con una persona, quanto sento di essere veramente al 100% sintonizzato con lui? Quando l'altro mi parla, quando io lo ascolto, sento di essere in questa sintonia totale? Il Vangelo è stracolmo di episodi in cui Gesù guarda le persone, si sintonizza con loro al 100%, dona loro quello sguardo ricco di attenzione e di misericordia di cui hanno bisogno per sentirsi amati e per cambiare. Gesù guarda Pietro, guarda l'adultera, guarda Zaccheo, guarda il giovane ricco. Il Vangelo dice proprio, fissandolo, lo amò. A volte si dice che il silenzio vale più di mille parole. Credo che anche lo sguardo valga più di mille parole.